I pidocchi? No, non l'ho mai avuti. Ne conosco uno però di pidocchio. Ci sei tu, Parenzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Il più grande bar d'Italia ha perso uno dei suoi principali e mitici personaggi. Mancherai a tutti e Parenzo non sarà più lo stesso. Ciao Gianluca. Ciao. Riposa in pace Gianluca Buonanno, un guitto di talento, ci mancherai. Ciao Gianluca, buon viaggio, ci mancherai. Ciao Leone. Non l'ho mai sopportato, l'ho sempre ritenuto un idiota delle sue stronzate che ha fatto. Eppure non riesco a non essere dispiaciuto. Ha rovinato anche le lezioni. Buon anno a Dio. Insegna agli angeli come insultare Parenzo. Allora, non è solo la morte di Buonanno, ma anche il fatto che a me questa storia delle elezioni, i commenti sulle elezioni a poche ore dalla chiusura dei seggi già mi hanno rotto i coglioni. Devo dirti la verità, caro David. Mi hanno già scocciato, è già stato detto tutto. Aspettiamo. Perché hai votato alla fine a Milano? Ho votato per Parisi. Ho votato per Parisi a Milano. T'avevo detto vota radicale, no, vota radicale. Te l'ho detto, ho telefonato mentre stavi entrando alle urne. Mai sì, una vero, giusta vero. Ne fai. Non ne fai mai una. Io, quanto ha preso Cappato? Scusa, quanto ha preso Cappato? All'1%. Quanto ha preso? L'1%. Su. Allora, non ne fai mai una giusta. Non ne fai mai una. Ti ho chiamato, mi hai telefonato, eri lì, sto entrando al seggio. Dico, per cortesia, sì, fai bene, una cosa saggia. No, lo dichiaro, te l'ho detto bene, al telefono. T'ho detto, per cortesia, vota radicali, liberali, liberisti, libertari. Abbiamo detto, Parisi e Sala sono la corte incostituzionale di un paese partitocratico arretrato. Vabbè, sì, ho capito. In cui i Falun Gong. Sì, mi hai detto così, ed è stato proprio perché mi hai detto così, appena hai cominciato a fare pannella. Ho ripensato un voto subito. Utile, ti ho detto, fai un voto utile. Ma quale voto utile? Voto inutile. Tanto i due andranno sicuramente al ballottaggio, ti ho detto, e poi potrai divertirti dopo. No, no, il voto Parisi, il politicamente corretto. Ma che politicamente corretto? Ma vai a quel paese, radicali, dovevi dare radicali. Vabbè, italiani. Comunque ragazzi, io vedete come sono, no? Io ho votato giusta. Parisi a Milano, ma avrei votato Giacchetti a Roma. Questa vabbè, è la realtà. Cosa questa è la realtà. Anch'io poi faremo le nostre dichiarazioni di voto ho votato al momento del ballottaggio. Al voto anch'io e in circoscrizione ho votato radicali. Vabbè, non italiani. Me ne frega un cazzo adesso. Radicali. Perché io voglio allora, il ragazzi, Falun però aspetta un attimo. Voglio il Falun Gong. Vabbè, ma senti, ma non ci rompere i coglioni alle 18:37 con i Falun Gong, dai, su. Sono successe tante cose, è morto Gianluca, dai. No, lo so, certo. Allora, io devo attribuire il premio di coglione del giorno, di coglione di queste ore. E due premi speciali sulla morte di Gianluca Buonanno. Il primo va a un professore di Padova, sì, uno sconosciuto professore di Padova, però pur sempre professore all'Università di Padova, che si chiama Vincenzo Romania. Voglio dire nome e cognome e scandirlo bene. Sconosciuto, ma da questo momento conosciuto. Avete il dovere di rompergli i coglioni in qualsiasi modo. Un tale Vincenzo Romania, il quale ha postato muore Buonanno, finalmente una buona notizia. Vabbè. Che coglione. I see a woman Un altro personaggio incredibile è un tizio di Sel, locale di milanese, non so di quale paese, credo Cinisello Balsamo, un esponente di Sel, tra l'altro pure quello è di Sel, del partito di Vendola. Vabbè, questo non vuol dire che Buonanno aveva ribattezzato Sodomia e Libertà, peraltro, Un tale Alberto Amariti, consigliere comunale, il quale ha detto: chi di Pedemontana ferisce, di Pedemontana perisce. Ovviamente si ha tutto il diritto di esultare per la morte di qualcuno, per carità. Io non come io penso che quelli che esultano sono dei coglioni, penso che però si ha il diritto di essere contenti della morte di qualcuno. C'è tanta gente, leggo sul web, che è contenta della morte di uno che io non so se posso considerare un mio amico, con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada, pur nella distanza di certe posizioni, perché io certamente non ero per tutte le posizioni di Buonanno. Voglio dire qui che molte delle cose che Gianluca si inventava, mi chiamava prima, qualche ora prima, e me le raccontava. E ogni tanto facevamo insieme qualche piccolo ritocchino. Guarda, dovresti fare così, secondo me, forse... E ridevamo insieme prima che le facesse. Mi ricordo quella cosa della spigola. Anzi, quando eri il suo ghostwriter, praticamente. No, non esagerare, come al solito. Cioè, io esagero. No, lui mi chiamava, non sempre. Mi chiamava e dice: senti, ma che ne dici se faccio questa cosa? Che succede? Ghostwriter. Io dico: no, vai, può succedere un casino. Cioè, mi ricordo quando si dipinse la faccia tutta nera. Quella è una cosa che concordammo quasi insieme: la faccia dipinta di nero. Vabbè, ma non è simpatico, però. Questo. Stupendo. Da dire. Ma no, perché? Ma non è che io ero. Era lui che se l'inventava sempre. Io davo ogni tanto un tocco finale. Un tocco finale, una pennellata finale. Come sentite, lo ricordo ancora come se fosse vivo, perché io le persone le voglio ricordare così, come voglio ricordare gli epici scontri con la persona che è in collegamento da Roma, cioè dire David Parenzo, che, diciamo la verità, lo possiamo dire, caro David, è fatto tutto in maniera semplice, naturale, spontanea, non c'era nulla di costruito in queste cose qui, niente, perché no, arrivava qui e scoppiava una battaglia, succedeva sempre qualcosa di diverso, non c'era niente di costruito, niente di artefatto, cioè sapevamo che poteva finire a bordello, ma non era detto. No, qualche quello volta sicuro, ma le nostre litigate erano assolutamente vere in questo, cioè io mi incazzavo e mi incazzerei ancora oggi tranquillamente per un tweet che però ho scritto ieri, ma hanno massacrato. Ma lascia, poi ne parliamo, poi ne parliamo. Parliamone, perché il vabbè, ma chi se ne frega. No, perché il mio giudizio su Buonanno non è che cambia, no, oggi, lo so, perché però, molti mi hanno scritto: sei un ipocrita perché hai scritto condoglianze. Perché sarei un ipocrita? Andate a fare in culo. Io ho scritto: sentite condoglianze alla famiglia. No, te lo leggo: per la tragica scomparsa di Buonanno. Tutto ci divideva, ma mi mancherà. Abbracci sinceri alla famiglia. Allora, io non sono un ipocrita. Le idee di Buonanno erano idee folli, idee pazzesche, idee incredibili, alle volte idee violente. Idee violente. Questo non è che io torno indietro perché una persona è morta. Però tu dici: quando è morto, gli fai le condoglianze alla famiglia. Sì, perché non era perché non era uno che ha ucciso delle persone. Gli scontri. No, siccome io sono lo stesso che ha gioito, vabbè, lo parliamo dopo. Che ha gioito per che cosa? No, quando morì, io mi ricordo, perché quando morì Priebke, ad esempio, c'era la polemica sui funerali di Priebke, io dissi quella cosa che posso anche qui ripeterti, no? Che per che me non doveva essere. Eri contento della morte di Priebke? Assolutamente. Vabbè, ma tra Priebke e Buonanno c'è una differenza. Sto comunque, dicendo, ragazzi, esattamente questo. Fermi tutti. Sto dicendo esattamente che c'è gli una differenza. Gli scontri di Parenzo con Buonanno sono diventati anche un cult nella storia, diciamo, della radio. Cult, diciamo adesso, sì, molto di più. Assolutamente. E portandolo. E Buonanno. No, cioè, adesso sono, scusami, sono le tigri ora. Gli elefanti e i pagliacci dopo. Se e tu sei, usi il caso secca. Tortosa. Una merda secca. Piacere, Parenzo. E tu usi solo il caso l'unico Tortosa per fare politica. Eccola ancora quella stupida. Ancora. Ti devi vergognare. Ti devi vergognare perché usi politicamente il caso Tortosa. In un campo di sei semplicemente detto con un'unica parola un coglione. Sei un coglione! ecco qua, te lo dico con amore. Guarda, con checca, amore. La checca che si coglione. Lo spelling di Daccio. Coglione. Ma perché? Io non ho capito perché adesso questi insulti a Bonanno. Spiegami. Ma perché usa? Perché no, intanto mi ha insultato per prima lui. Ma che ti ha detto? Il clown. Vabbè, ma è dall'inizio che dici clown, va bene, ci sta. Ridiamo. Intanto è intervenuto quando c'era il numero delle scimmie. Il clown arrivano dopo. Ho ricordato al clown che Tortosa. Ma vergognati, parente, di quello che dici. Vergognoso. Sei un comunista di merda. A differenza di Tortosa, sei fortunato perché io non ti querelo. Sei fortunato e anche l'immunità. A differenza di Tortosa, che ha la dignità e chiede scusa, che c'entra? Tu sei uno sciacallo perché fai politica sulle spalle di Tortosa. Tutto detto, perché è un comunista, no? Però lui non vuole il manganello, ma vuole i gulag. Ma vai nei gulag, no? Voi ma state facendo un pogrom culturale sulla vicenda dei rom. Un pogrom culturale. Ma Renzo, io vorrei che tu andassi su quello che arrivano i clandestini, no? Sì. Ti metto tu, metto te e metti gli zingari e li rimandiamo da dove partono. Che bello, sarebbe la grammatica. Scusami, posso assicurarti che invece un mondo senza Buonanno sarebbe un mondo senza il circo, quindi che meno mi divertente. Votano, tu invece fai le trasmissioni ma infatti è pieno tu di idioti. Perché sei un coglione. Ma la democrazia prevede l'idiota, infatti. Guarda un po'. La democrazia prevede anche che l'idiota vada al potere. Caso plastico di cui stiamo parlando. Capito? Allora, oggi ci è arrivato un messaggio a un certo punto sulla vicenda di Buonanno, Parenzo, che recitava in questo modo. Merda fino alla fine, il mondo è un posto migliore oggi. A questo messaggio era legato un numero. Voglio capire se questo signore, che non so come si chiama ma non mi interessa, perché in realtà questo concetto, questa idea che il mondo oggi è un posto migliore per la morte di una persona, è condivisa da un po' di gente, anche persone che lavorano nel mondo dei media. Mi segnalano un giornalista, uno che lavora a Radio Popolare. Indagheremo, vedremo. Comunque, ripeto, merda fino alla fine, il mondo è un posto migliore oggi. Verifichiamo se questo signore la pensa veramente così. Pronto? Il mondo è un posto migliore oggi? Beh, sicuramente. Come mai? Se n'è andato via quel pezzo di merda, quindi. Sì? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Perché comunque è andato via un personaggio che era un deleterio, un fascista, un razzista, uno xenofobo. Sì. Un uomo che negava i diritti delle minoranze, dei diversi. Cioè un uomo che seminava odio. Ce lo siamo tolto dalle palle, sono contento. Resta che secondo me. Non mi nascondo, è quello che penso, cioè non ho paura di dirlo. L'odio è odio, sì, sarà odio, fa niente. Tu sei contento che Buonanno è morto? Sì, esatto. Ma è come se fosse morto Kripke, è come se fosse morto un nazista qualsiasi. Sono contento, io stappo una bottiglia quando muoio un nazista. Tu puoi pensarla come vuoi e hai anche il coraggio di dirlo. Resta che secondo me sei un imbecille. Vabbè, sai, tu sarai imbecille perché lo ospitavi e gli facevi dire tutta quella serie di stronzate che regolarmente mandavi in onda. Sì. E tu pensi di me che io lo sia, fa niente. No, ma io penso che tu sei un imbecille, non per quello che pensi di Buonanno, ma perché il paragone che fai tra un nazista come Priebke, che ha contribuito a uccidere un sacco di gente, e Buonanno è semplicemente ridicolo. Cioè, ma per semplicemente perché Buonanno non è vissuto nel 1934 perché e non sennò cosa sarebbe? Sennò sarebbe stato esattamente un carnefice, esattamente come quelli che lui evocava. È il verbo del nazismo. È il verbo del nazismo. È il verbo del nazismo che si nasconde sotto una camicia pulita e una cravatta, d'accordo? Se tu non la pensi così, è un problema tuo. Io non la penso così. È un problema mio. Mi vuoi dare dell'imbecille? Bene, abbiamo un nazista di meno. Sti cazzi che mi dici che sono imbecille. Non sono, va bene. Ma tranquillo. Sono imbecille e sono contento, d'accordo? No, ma per carità, ma ognuno può essere imbecille e contento, va benissimo, per carità. Perfetto, sì. Ma esultare e speriamo che domani ne muoia un altro, va bene? Per esempio, chi è che ti piacerebbe che morisse? Ah, Borghezio, per esempio. Borghezio, eh? Bene. Cioè, ti auguri anche la morte di Borghezio. Cioè. Sì, sì, assolutamente. Marione, stai attento, toccate un po' le palle. Se ce l'hai, non ce l'ha più, non ti preoccupare, non ce l'ha mai avute, come tutti i leghisti, non ce l'hanno. Non ce sono l'hanno. Delle palle secche, delle palle, sì, palle mosce. Mandali nelle ballie a Parigi a fare i leghisti, mandaceli. Ma che c'entra adesso? Lo so. Non c'entra nulla questo. Comunque, ti auguri anche la morte, sì, di Salvini, mi sembra, no? Assolutamente sì. Cioè, se Salvini crepa, sei contento? Sì, grazie. Odio per odio, va bene? Pace e bene. Hanno seminato odio, sti cazzi. Ma hanno seminato odio chi esprimeva delle idee in un certo modo? No, qual è? No, qual è l'odio? No, dov'è? Era seminare gratuitamente ma dell'odio. Ma quando mai? Ma era seminare gratuitamente dell'odio. Ma l'odio è un'altra roba, dai. No, erano delle l'odio, idee. L'odio invece è la spettacolarizzazione idiota del male. Se uno non vuole gli immigrati in Italia o comunque se ne vuole di meno e lo esprime attraverso un qualcosa che spesso è cabarettistico. Ma questo chi lo dice? Qual è il metodo? Qual è il metodo? Che lo dici tu? Qual è il metodo con cui deve esprimerli? Il metodo non è quello del filo, di evocare il filo spinato, di presentarsi con le pistole, i metodi da troglodita che devono fare leva sulla pancia della gente. Ma esistono, come lui. Esistono anche. Ragazzi, ce lo siamo tolto dalle palle. Esistono anche la libertà. Esiste anche la libertà di gioire, capito? Quando, per carità, quando ma muore infatti lo strozzino al quale prestavi i soldi, sei contento? Sì, adesso è morto un nazista, va bene? È morto un nazista. Tu confondi, esatto, confondi, eccessivo, confondi i periodi, le epoche, l'importanza delle persone. Sì, è morto un nazista. E poi è morto uno innanzitutto che aveva due figli. No, è morto un nazista, è morto un fascista, è morto uno. Luca, di te che cazzo te frega dei figli? Che stava, no, col movimento sociale, che faceva la sua campagna elettorale becera sui rom. Pensava che i campi rom andassero eliminati, allora? Evidentemente pensava ad altro mentre guidava. Mi dispiace per te, certo, ma non c'avrai il buffone di corte lì da invitare per fare. Cazzo, c'entra il buffone di corte? Allora, amico mio, io sono dispiaciuto per la persona, non perché non può venire più la zanzara, capito? Non hai capito. Non hai capito proprio un cazzo. Io sarei dispiaciuto di tutti, tranne con chi. Tranne ovviamente di alcune persone. Un pedofilo, se muore, un pedofilo. Posso essere onesto con me. Ma tu sei onesto, infatti. Sei onesto. Sono contento che sei tolto dalle palle, ma che ci posso fare? Esprimi odio anche. Cioè, tu esprimi lo stesso odio che attribuisci a Bonanno. Probabilmente sì. Vabbè, ciao, a presto, ciao. Ciao. Allora andiamo a Imperia, Pierluigi, vai. Ciao Cruciani. Dimmi. Vabbè, sì, sostanzialmente sono stato anticipato di netto, non con argomentazioni così calde come l'ascoltatore romano. Però chi era Buonanno, Cruciani? Adesso tu gli eri, tra virgolette, amico, ma chi era Buonanno? Un razzista. Uno che mi sembra ti abbia detto in trasmissione. Ma quale razzista? Ragazzi, veramente il razzismo è una cosa diversa. Cioè, è una cosa completamente diversa il razzista. Che uno che non vuole. Ma cazzo, se un barcone affondava con dentro. Ma bambini, non l'ha detto peggio questo. Per dai. Loro ti diceva, dai, su. Ma non è così, dai. Era un razzista ripugnante. Voi razzisti ripugnanti, vai in America, va. Vai in America. Dai. No, guarda, io. Ma in America c'è. Perché in America io direi che Trump è. Il silenzio di Parenzo che. Ma poi non ho capito. Ma mettiamo che sia come dici tu, come dice anche Parenzo. O come dice anche Parenzo, che è un razzista. L'ha detto più volte. Non vorrei che venisse equivocato. Sì, ma stai zitto un attimo. Aspetta un attimo, Pierluigi, scusate. Mettiamo che hai ragione tu, hai ragione Parenzo. Era razzista perché Parenzo l'ha detto più volte. Allora. Imbecille questo qui, ma come allora, si permette? Allora, ma io non parlo niente, più allora, di bestemmie, arrivederci, non me ne frega. Tu dici che questo professore che ha scritto questo tweet da no, ma lascia perdere, anche è un razzista, allora? Allora? E allora che i razzisti. Non ho capito. Anche se uno professa. Anche se uno professa il razzismo. Mettiamo che sia come dite voi. Che uno professa il razzismo. Non ha diritto di. A uno di meno. Tu ragioni così. Uno di meno. Eliminare le persone. Eliminare le persone. Io penso. Dai, su, eliminare. Comunque, mi hai rotto i coglioni per la cosa che hai detto prima. Ciao. Roberto da Padova. No, io con quello che mi stai. E infatti l'ho eliminato. Roberto Padova, dai. Pronto? Sì, vabbè, gli è scappato, dai. Roberto Padova, dai. Sì, io volevo fare una considerazione, perché lavoro in autostrada, quindi spesso mi trovo a lavorare in emergenza con la stradale, e volevo dire che sono assolutamente dispiaciuto della morte di Buonanno, e, pur non essendo d'accordo con nulla di quello che faceva politicamente. Però, come era uno sconsiderato in politica, può essere che sia stato anche sconsiderato in automobile. Questa è una stupidaggine. Escludiamo il fatto questa che è una stupidaggine, bella e buona. Ma allora? Ma questa è una stupidaggine. Ma lui è morto tamponando un'auto in emergenza ferma. Ma che stupidaggine. Ma cosa c'entra? Ma non c'entra niente. È una stupidaggine. Sta dicendo una stupidaggine. Sta ballando sul cadavere. Ma sta dicendo una stupidaggine. Aspetta un attimo, ragazzi. Torniamo dopo. Roberto, adesso me lo spieghi meglio sta cosa. Torniamo dopo. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora ragazzi, due parole sulle elezioni prima di tornare agli argomenti più vari, quelli che volete, del caravanserraglio della Zanzara. Devo dire che il Berlusca o comunque le divisioni del centrodestra hanno favorito Giachetti, perché altrimenti col centrodestra unito è molto probabile che al ballottaggio sarebbero andati la signora Raggi a Roma e un esponente del centrodestra, ma probabilmente la signora Meloni, no? La signora Meloni. Sì. Salvini su Berlusconi. Berlusconi ha sbagliato pesantemente, ha aiutato la sinistra, già ha preso la metà dei voti che ha preso Giorgia Meloni, sostenuta dalla Lega e sostenuta da me. Allora, ovviamente dopo le elezioni ci sono persone contente, persone scontente, partiti che dicono che abbiamo vinto anche se non hanno vinto, la solita sceneggiata all'italiana. Renzi, devo dire la verità, dice di non essere contento, poi se la piglia con Salvini perché invece Salvini è contento, dice di essere contento. Sentiamo, solo col 2,7 a Roma, ma Salvini è contento anche per altri motivi. Beh, anche Milano ha preso una piccola stecca, Ma no, ma ancora quello non si sa, Secondo turno. Ah, no, tu dici Salvini? No, Salvini, la sua lista, la Lega, insomma, come si chiama? Si chiama ancora Lega? Come si chiama? La Lega Nord. Quando leggo Salvini che è contento del risultato, gli dico auguri, hai preso il 2,7% a Roma, se sei contento col 2,7 va bene. Quanto mi annoiano i commenti sulle elezioni amministrative, guarda, sono di una noia mortale. Beh, come una noia finanze? Mortale, non c'è niente di intelligente, non c'è niente di nuovo. No, ma dimmi, no, niente di divertente, niente di. Se è tutta la solita solfa, le solite robe, guarda, è veramente di una noia mortale. No, io dico che a Torino Fassino rischia molto, perché questa Appendino è una brava dei 5 Stelle, rischia di mettere insieme naturalmente i voti di quelli che vogliono far perdere Fassino e per interposta persona vogliono far perdere Renzi, che è un po' lo stesso ragionamento che si fa a Roma, anche se lì parte la Raggi, parte avvantaggiata perché ha preso un sacco di voti. Poi c'è Milano, vecchio mio, A Milano, Caso Milano lì, Caso Milano, che c'è da dire su Caso Milano? Se Renzi dovesse perdere Milano con Sì, quello sarebbe una bella batosta, Expo, sì. No, quella sarebbe la batosta, perché sai, Roma, Roma con lo scandalo, amico, come dice sempre Mughia, no? E dai, perdere Roma, sai, lì mafia capitale, casini, eccetera. Milano invece. Ieri a un certo punto guardavo Porta a Porta, a un certo punto Di Battista. Male, così guardavi? Porta a Porta, sì, Porta a Porta. Maratona di Mentana. Ma no, Porta a Porta molto meglio. porta a porta, istituzionale, preciso, perfetto, con le notizie. Ma tutti da... Ma che cazzo, ma me ne frega, io vedevo porta a porta. Ma che va. C'era Di Battista contro, a un certo punto c'era Di Battista contro Orfeo, sì, stupendo, Battista, che gli ha detto a un certo punto: no, li ricordo che lei è pagato dai cittadini. Sì, dato che ho l'opportunità per la prima volta di parlare con il direttore del TG1 Orfeo, che ricordo è un dipendente dei cittadini che pagano il canone, non del presidente Renzi, vorrei no, sapere se guardi, domani guardi che io e lei siamo pagati dai cittadini allo stesso che il Movimento modo, 5 Stelle è la prima caro forza Di politica Battista. Della capitale, o magari tirerà ma fuori qualche storia sulla Raggi, su una pettinatura della problema? Raggi. Caro Di Battista, qual è il suo problema? Io sono pagato dai cittadini come ha pagato lei. Quindi mi faccia la cortesia domani a dire che il Movimento 5 Stelle è la prima forza della capitale. Sia corretto lei con me. Sia corretto lei con me. Va bene. E non minacci. A parte che è sempre benvenuto il al TG1, è che lei è deve dare il TG1, lei è, lei è tutti direttore suoi... del TG1 e deve dare una corretta informazione. E io la do, caro, caro di, Renzi, caro Di Battista, caro Di Battista, c'è una commissione parlamentare di vigilanza che è deputata a fare questo, che ha riconosciuto la mia correttezza sempre. Capisce? Quindi lei non può dire, lei non può dire delle falsità in televisione, caro Di Battista. Detto, direttore, io sono pagato dai cittadini come ha pagato lei. Allora, non si capisce però che cosa voglia Di Battista da Orfeo, oltre a criticare in generale il TG1 perché tradizionalmente è contro il governo. Vorrebbe che Orfeo dicesse che il Movimento 5 Stelle è il primo partito della capitale. Vabbè, insomma, là ci sono i dati elettorali. Non è che uno deve fare per forza il titolo il Movimento 5 Stelle primo partito della capitale, perché lì conta chi vince, no? Cioè lì conta chi farà il sindaco, perché poi i consiglieri comunali saranno il 60% per chi per la coalizione del sindaco e il 40% per gli altri. Per cui di che stiamo parlando? Perché Orfeo dovrebbe dire il Movimento 5 Stelle primo partito della capitale? Nelle varie considerazioni del voto c'è quest'idea di che i 5 Stelle siano stati un po' boicottati e la Raggi sia stata durante la campagna elettorale un po' emarginata dall'informazione, ma non è vero, c'è una stronzata. Nessuno ha fatto dei complotti contro la Raggi. Quando qualcuno ha preso in giro la Raggi era per alcune sue frasi magari estrapolate eccetera eccetera, un'operazione che si fa sempre, e quella sulla funivia e altre ancora, ma nessuno ha fatto una campagna contro la Raggi sui media. Ma che gliene frega ai media di fare una campagna, in particolare la televisione, di fare una campagna contro la Raggi? Cioè, ma i partiti non vedono l'ora di dare la città in mano ai grillini per vedere cosa sanno fare? Roma è una città ingovernabile, sono cazzi per tutti, altro che... Allora, c'è un signore che si chiama no, Carlo. Vedi, su questo, no, perché su questo un'alternativa valida per poi chiudere sta roba delle elezioni che non mi interessa a nessuno, come dici tu, sarebbe quella di non fare il ballottaggio a Roma. Cioè, secondo me il ballottaggio a Roma non va fatto. Chi perde tra Sala e Parisi viene a fare il sindaco di Roma. Questa è buona. Questo sarebbe, no, ma davvero, questo sarebbe perfetto. Parisi è di Roma, nei fatti, no? Sono due tecnici, si equivalgono. Se tu voti Sala è come votare Parisi, tutto sommato, no? Sì, tolto il fatto che la Lega li appoggia. Sì, tolto il fatto della Lega, vabbè, ma chi se ne frega. Però ecco, bisognerebbe fare una legge in questi giorni per dire che chi perde la sfida, intanto risparmi il ballottaggio a Roma, risparmi un po' di soldi, cioè, chi perde chi a Milano va a fare il sindaco a Roma. Perfetto, esatto, questa è una proposta secondo me sensata, sì, potremmo discuterla con Dali Monte e con altri professori, cioè, eliminando magari, completamente il ballottaggio a Roma. Allora, totalmente, c'è un signore che si chiama Carlo Pallavicini, mi segnala non essere un consigliere comunale a Piacenza che ha scritto a proposito della morte di Buonanno: quando muore una merda che semina odio, le persone per bene sono felici. Consigliere comunale a Piacenza. Un bel silenzio. Carlo Pallavicini. Carlo Un bel silenzio non fu mai scritto. Ma che c'entra questo? Noi non dobbiamo stare zitti di fronte a queste cose. No, lo a dico me non lui, me ne frega nulla. Dico a questo qua: un bel silenzio non fu mai scritto. E vabbè, questo, ma dico questo qua invece vuole parlare, vuole dire la sua. Carlo Pallavicini. Però. Luigi da Pisa, vai. Sì, buonasera. Dimmi, Luigi. Vengo spesso per dire cose. Non ero mai d'accordo con Buonanno, forse l'1%. E probabilmente sono tessuto, però tutta sta gente, che specialmente quello che sa come mai di estrema sinistra, che riescono a gioire della morte di Buonanno, non li capisco, perché se dovessero gioire per tutte le stronzate che dicono quelli di sinistra, Aspetta, aspetta, tutti i giorni. Fermo. Chi l'è che schi? Chi l'è che schi? Da oggi si parla solo milanese. Chi l'è che schi? Vabbè, allora Luigi, non ho capito. Niente, ho ripetuto che se uno dovesse gioire per tutte le stupidaggini che dicono anche quelli di sinistra, staremmo a gioire tutti i giorni. Vabbè, però, dunque, questo... che vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire che secondo me non si deve mai gioire sulla morte di una persona. Mai. Va bene, Alessandro Berlino, vai. Sì, ciao, ragazzi, però voce su, ragazzi, dai, forza, forza, Alessandro, sì. Dimmi. Telefono perché volevo chiedere umilmente scusa al dottor Parenzo, perché l'avevo chiamato. Non si sente niente, Enrico da Padova, dai. Vuole chiedere scusa, questo è bene. No, è dopo, sì. Dopo, Enrico Padova, vai. Allora, volevo ricordare un episodio di 6 anni fa, sì. Commemorazione di Sergio Ramelli. E allora? Sappiamo tutti chi era. No, non sappiamo. Beh, la gente, sì, non lo io sa. Lo so, ma io lo so, Sergio la gente Ramelli, non lo un ragazzo so. Di 17 vabbè, anni. Ucciso negli anni 80. Negli anni 70 dall'Avanguardia Operaia. Vabbè, sì. Allora Enrico, non ce ne frega niente però adesso, vai. No, un momento. Arriviamo dunque. Dai. Manifestazione dell'estrema destra, sì. Arrivano i centri sociali guidati da Luciano Mühlbauer, sì. Consigliere regionale di Rifondazione Comunista, che si mise a cantare uccidere fascisti non è un reato. Questo quanti anni fa? 2010, va benissimo, caso abbastanza bell'aneddoto. Caso abbastanza bell'aneddoto. Uguale. Bell'aneddoto. Va bene, bell'aneddoto, dopo vero? Devi aggiungere qualcosa? No, niente, Paco no, Belluno, no. Vai, Paco da Belluno. Tu sei falso come un biglietto di un euro, cazzo. Non ho sei capito, falso, scusa, non ho capito. Sei falso come un biglietto di un euro. Perché? Sei che falso. Succede? No, perché no? Perché allora tu, intanto inviti sempre questa cazzo di fascisti, no? Che arrivano. Uno, dicono su tutto sui stranieri. Sul musulmani, se la aspetta, aspetta, che stai sei fermo, che stai in viva voce, che c'hai? No, no, non sono in viva voce così, non sono in viva vabbè, voce. Ma no. Che vuoi, Paco? Dimmi che vuoi. No, no, no, ma perché hai rotto i coglioni? Perché tu non puoi dire a uno che è un imbecile. Ma a me mi dice che sono un imbecile, ti manda a fanculo 3 volte. E vabbè, ma allora... No, perché questi razzisti di merda, sì. Che vanno all'inferno, che cazzo se ne frega questi qua? Devono pensarsi prima, ma tu, quando le dai voce? Ma tu cioè, non ho capito, dunque tu sei contento che è morto Buonanno? Ma tu inizi che... Lascia perdere Cruciale, tu sei contento che è morto Buonanno? Ma non è il fatto di essere contento. Ma dillo, No, ma no, ma non è. Ma io sono musulmano, non dovrei mai essere contento. Se hai detto deve andare all'inferno, hai detto deve andare all'inferno. All'inferno uno di genere, ho detto. Sì, muore, vabbè, si muore, allora. Si va all'inferno. Non è la stessa cosa che augurare la morte a una persona. No, beh, ho capito, ma è uguale. Cosa. Se uno dice deve andare all'inferno, no. No, ma no, allora non hai capito niente. Senti, no. Ma non rompermi i coglioni, vai, ciao. Io penso di avere un cuore e, sì, un e una testa, quindi mi è venuto, non mi vergogno mica a dirlo, cioè se l'ho fatto è perché mi è venuto, devo dirti. No, ma che ne so, ma penso che affronti tutte le pagliacciate di cui sei stato e sei protagonista, è chiaro che anche questa è sembrata una cosa a favore di telecamera, ecco. Se tu avessi davanti a te i responsabili di quella strage, che cosa faresti? I responsabili della strage di scapperebbe a gambe levate perché è un codardo. Ma perché no, un codardo? Perché vedi, sì, ma perché vedi, sono tutti i guerriglieri. Tu sei proprio un pervertito politico. Sono i guerriglieri conigli questi. Sono guerriglieri conigli. Questi sono guerriglieri conigli questi. Ti sta dando del coniglio, eh? No, guerriglieri conigli. Sì, vabbè, ma che me ne fotte di quello che dice Parenzo. Però cioè questo personaggio so se... putrido che è un eurodeputato putrido, sta cioè. Putrido, fanculo, putrido politicamente putrido politicamente Parenzo, putrido sta mettendo Parenzo, in discussione decenni di Stato di diritto che l'Europa difende e ha conquistato. Questo personaggio infimo sta mettendo in discussione una storia millenaria di diritti, di processi, di giusti processi. Questo poveretto, che gioca e specula su quei morti di Bruxelles. Altro che le lacrime da coccodrillo, quelle lacrime del cazzo da coccodrillo che va a piangere in televisione e poi mette in discussione i valori dell'Occidente. Noi occidentali siamo meglio proprio per questo. Non per anche Buonanno può andare in Parlamento da noi. Pensa quanto siamo migliori degli altri. Anche un coglione può essere eletto in Parlamento. Se non ti è bastato Massimo Fini, ci penso anch'io. Stronto. Sì, Massimo Fini che la pensa, all'opposto. Guarda, tuo. Ti facessero saltare per aria uno dei tuoi ma parenti, cosa c'entra, dei tuoi cretino? Cosa parli, ma che razza di paragone è? Ma che razza di paragone è? Ma tu saresti un politico, ma tu sei un miserabile. E allora bisogna giustiziare i terroristi islamici. Cioè tu devi avere il coraggio. Ma sì, ma giustiziamoli se è il caso. Giustiziamoli pure. Ma che viviamo in un continente, per fortuna, viviamo in una parte di mondo che le stronzate di Buonanno non sono iscritte in nessun paese, per fortuna. Questo è il punto. Per fortuna siamo ancora civili, nonostante Buonanno, per fortuna. Quelli che sono stati mutilati. Vai a raccontarlo, quelli che sono stati mutilati. Ma che vuol dire? Ma questo è un politico. Allora, a me non piace la Lega, non mi era simpatico Buonanno, ma vorrei fare un ultimo saluto a quello che è stato un grande, eccentrico, strampalato protagonista della Zanzara. Ciao Gianluca. Cazzo, ragazzi, è morto Buonanno. Merda. Ovviamente Buonanno direi di nominarlo Zanzariano ad honorem a vita, poco mi senatori a vita. Zanzariano a vita, Gianluca Buonanno nei nostri cuori. Gianluca è vivo e lotta insieme a noi. Allora ragazzi, si viene ad apprendere, caro Parenzo. Fa impressione, però effettivamente sentire la sua voce. Una grande impressione, le battaglie che facevate voi, sempre sulle idee, sempre sulle idee. Dunque, ci mancherebbe altro. Allora, si viene ad apprendere che negli Stati Uniti il 61% ma vaffanculo, il 61% degli americani ammette, no, lascia perdere Trump, lascialo lì buono. Il 61% degli americani fa la pipì sotto la doccia. Questo è fondamentale. Il 61% degli americani. E fin qui, vabbè, ci potevamo anche stare, no? Insomma, gli italiani più o meno sarà la percentuale sarà quella. Poi l'ipocrisia italiana magari ti porterà a dire no, io non la faccio, mentre invece la fai. E tu sicuramente la fai, anche se non lo dici. Sicuramente la fai. Ma la cosa fondamentale è un'altra. Non può farla nel bagno dove è deputato. Ma ti può capitare anche di farla sotto la doccia. Cioè, ci sono due elementi. 62% sembra che sia una consuetudine. No, ci sono due elementi fondamentali. Uno, che si risparmia l'acqua, perché naturalmente tu utilizzi la stessa acqua della doccia. Dunque, non è che vai poi al cesso e devi scaricare l'acqua, no? Questo è fondamentale per chi crede in questa cosa. A me non me ne fotte nulla di sprecare l'acqua, no. Però te nella tua mente falla sul balcone, no, allora, direttamente, così risparmi l'acqua. Falla sui gerani della vicina, no, sotto casa tua. Apri la finestra. Sulle piante, te non ti è mai capitato di farla. Fai la finestra, tira fuori quel bigolo, quella pulce, quella cosetta lì e falla fuori dalla finestra, allora. Ma che c'entra fuori dalla finestra con la doccia? Non c'entra, sono due cose diverse, dai. No, dici risparmi l'acqua. Risparmi l'acqua, e questo è un elemento per chi crede in queste cose. Te sei de sinistra, dunque potresti credere in queste cose, il risparmio energetico, tutte queste puttanate. Il risparmio energetico, il verde. È vero che quando io mi insapono chiudo l'acqua, questo è vero. No, io no, perché quando, non me ne fotte nulla. L'altra perché tu cosa, non fai la doccia direttamente. Esatto, questo è un altro tema, è un'altra osservazione. L'altra cosa è che c'è un grande risparmio di carta igienica. Questo pure è buono. C'è un altro motivo per cui bisognerebbe fare la pipì sotto la doccia. Beh, è la realtà. Cioè, che tu risparmi sulla carta igienica. Pare circa il 27% della carta igienica potrebbe essere risparmiata. Ma questo è l'ufficio statistico. Cioè, per esempio, quest'altra cosa non la capisco. Perché tu, dopo aver fatto la pipì, che fai? Usi la carta igienica? Io no. Io non mi lavo mai dopo aver fatto la pipì. Ma tu sai che non sono solito parlare di tu queste. Tu sai che c'è quella cosa incredibile. Però una volta un imprenditore mio amico, sì, particolarmente fissato con la pulizia, un imprenditore mio amico di Rimini, non posso fare il nome, un imprenditore molto importante di Rimini, controllava i suoi dipendenti quando uscivano dal bagno. Cioè, controllava il minutaggio giusto, di amico, permanenza in bagno. Questo capo, cioè, se il minutaggio capo di permanenza in bagno era un minutaggio troppo basso, significa che non passavano a pulirsi le mani dopo aver fatto la pipì. E dunque lui dice: ah, tu allora non ti pulisci le mani. Ah, quindi lo faceva per non l'igiene. Te la posso stringere. Eh no, sì, per igiene. Ah, non, ti, non è che li licenziava dopo. Pensavo per la produttività. Non ti posso stringere, no. E dunque c'è questo elemento qua del pulirsi la mano dopo aver fatto la pipì. Io ho imparato recentemente a fare questa operazione. E per un sacco di tempo, fino diciamo ai 46-47, credo di non essermi mai lavato le mani dopo aver fatto la pipì. Mamma mia, mai, mamma mia. Praticamente mai. Mamma mia, che porcheria. Adesso me lo ricordo un po' di più, devo dire la verità, me lo ricordo un po' di più. Però devo dire la verità, qualche volta me lo scordo. E provo un sottile piacere subito dopo a dare la mano a qualcuno. Una sai che sottile perversione. Ma che porcheria, ma sai che adesso nessuno gli darà più la mano? Dico mio. Bellissimo, dai la mano a qualcuno. È una mancanza totale di rispetto verso gli altri. Ma non succede nulla. È dai, una totale mancanza niente, di rispetto dai, verso gli altri. Dai, ma dove vivi? Su. Ma non ti, ma è una porcheria. È l'uomo delle caverne. Ma dai. Antonio da Verbania. Anzi, no, c'era Paco. C'era Paco. Paco da Belluno. Paolo, dimmi, Paco, che c'è? Che c'è? Pronto? Paco, che sta facendo? Paco è un nome rivoluzionario. Signor Paco, Paco. No, Paco lo sai chi è, secondo me? Quello che tempo fa chiamò raccontando delle sue avventure erotiche. Anche. Cioè le italiane che vogliono provare il nero, eccetera, ah, eccetera. Ho capito, ho capito. Paco? Sta facendo qualcosa, Paco. Quello che aveva messo incinta una, eccetera. Paco? Paco? Che sta facendo, Paco? Comunque, Paco è un nome rivoluzionario. No, ma è quello che ha detto, no, il senegalese. Là. Con chi sta? Paco? Con chi sta? Che sta facendo? Paco? Vabbè, infatti suoni. Sta trombando, che sta facendo? Sento una voce, ma no, di donna. È 19:44, figurati. Pronto? Paco? Non si può Paco? Frugare così. Vabbè, Michele da Como, dai, ma è lui che ha chiamato. Michele da Como, dai, Michele. Michele, dimmi. Ma come fai? Giuseppe, ma come fai a dire che questo non era un coglione? Chi? Ha tamponato una persona. Ma Bonanni, ha tamponato una persona in corsia d'emergenza. Ma ho capito, messo perché devi dare del coglione? Perché devi dare perché del... come era coglione in vita si è dimostrato anche nell'ultimo momento. Scusa, come si fa a tamponare uno nella corsia d'emergenza? Questi sono i politici italiani. Ma non dire cazzate, Michele, che cazzo c'è? Stupidaggine. Ma sei veramente un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Sei un coglione. Ma sei veramente un coglione. Ma che c'entra, scusa? Ma pare che abbia avuto un malore. Pare che abbia avuto un malore, imbecille, cretino. Imbecille, pare che abbia avuto un malore in macchina. Ma sei un poveraccio, dai, su, pare che abbia avuto un malore, sei veramente un poveraccio. Pare che abbia avuto un malore. Ma come fai a tamponare con un malore in macchina? Si è ammazzato lui e stava ammazzando un'altra persona. Come faceva? Ma non ho capito. Allora, secondo te che ma questo è stupido. Non ho capito. Allora, stupido. Ma che cosa vuoi dire con questa cosa qua? Non ho capito. Stupido. Ma che cosa vuoi dire? I politici si sentono onnipotenti, si mettono sulla strada e si mettono in guardia. Ma cosa c'entrano i politici? Devono scappare, loro hanno cose importanti da fare. Ma non dire stronzate, andate. Se lo fa un comune cittadino. Se lo fa un comune cittadino cosa? Cosa? Che è morto? È morto perché forse ha avuto un malore, è andato a sbattere nella corsia d'emergenza contro una macchina parcheggiata lì, imbecille, imbecille. Guarda il caso, nella corsia d'emergenza questo è andato a tamponare. Ma che c'entra? Ma che cosa hai pensato? Ma cosa vuol dire? Pensato, non usare il termine pensato. Avete l'amicizia e quindi la volete giustificare, ma in effetti lo sapete anche voi. Ma che cosa devo giustificare? Hanno l'arroganza, la ma era in autostrada, cretino, in autostrada, imbecille. Appunto per questo, in autostrada che stava facendo nella corsia d'emergenza? Ma non ho capito, cosa faceva? È andato a finire lì nella corsia d'emergenza? E se ci stavi tu con tua moglie nella corsia d'emergenza? Ma che c'entra? Non ho capito. Ma cosa vuol dire? Ma cosa è vuol una dire? Tragedia, cosa ragazzi, ma che significa? Ma roba incredibile, guarda. Io non ho capito. Anche sulla tragedia arrivano quelli che ci spiegano la i dinamica. Ma poi non ha capito cosa, niente, perché stupidità. La corsia d'emergenza non significa che è andato a finire lì perché ha avuto un malore. Non ha capito niente, mica. Non è che perché andava. Allora l'autostrada era libera. Voi avete il quadro della situazione. L'autostrada era libera. Lui ha senti, non cercare adesso, non cercare adesso. No, di fare... stai cercando tu di giustificarlo. Ma giustificare cosa se è morto dopo l'incidente stradale? Che devo giustificare che cosa, imbecille? Che devi ma dire, che c'hai in testa, le pigne? Che cosa hai in testa, le pigne? Ti sei dimostrato coglione nell'ultimo momento, che ha tamponato una macchina nella corsia d'emergenza. Ma capisci che non lo fai a 10 all'ora un incidente mortale? Ma certo, infatti in autostrada non poteva andare a 10 all'ora, Michele, mi pare normale. Infatti. Ma che c'hai in testa? Che c'hai in testa? Le pigne? Che cosa hai in testa? Le pigne? Che cosa hai? Ma io ho le la sabbia, cosa hai in testa? Ce l'hai tu la sabbia in testa perché stai cercando di arrampicarti. Imbecille, cretino. Questa è l'arroganza della politica italiana che dimostra queste cose. Ma cosa c'entra l'arroganza della politica italiana in questo caso? Non c'entra nulla l'arroganza della politica italiana in questo caso. Nulla, nulla. Paco, vattene. Paco. C'entra Cruciani, l'arroganza c'entra con la politica, perché ma loro devono dare il buon esempio. Ma cosa c'entra che questo è morto? Esempio. C'entra, perché quella gente arrogante là, sì, lì ci serve qualcosa, ma perché non hai tirato fuori registrazione quando Bonanno diceva che la gente che è morto in mare, nelle barche là, che c'è peggio per loro? Ma a parte che non l'ha detto così, cioè non ha detto così. Che sia lui, quelle erano posizioni politiche, espresse alla sua maniera. Cazzo, la mia posizione è questo, uno di genere che muore che va all'inferno, cazzo, che va all'inferno. Beh, vai all'inferno tu, vai all'inferno tu, vai all'inferno tu, Paco, vai all'inferno tu, vai. Matteo Salvini con noi, buonasera. Chi era il poveretto che parlava di inferno e non si ferma neanche di fronte alla morte di un padre e di due figli? No, un idiota, guarda, ci sono oggi purtroppo delle persone, compreso un professore universitario, poi uno ha anche il diritto di esultare o di essere contento di fronte alla morte, non me ne frega niente a me, poi dipende dai ruoli che hai naturalmente, no? Uno può essere anche contento dentro di sé della morte di qualcuno. Il diritto a essere cattivi, mi pare una cosa veramente. Ma c'è questo, io ammetto tutto, ovviamente. Queste persone per me sono degli imbecilli. C'è un professore universitario di Padova che ha pubblicato la foto di Bonanno, ha detto: buona notizia, oggi è un bel giorno perché è morto Bonanno. Professore universitario a Padova. Ma anche perché questi insultano i parenti, cioè lui purtroppo non c'è, quindi non sappiamo se può sentire o vedere. C'è un consigliere comunale di Piacenza, mi hanno segnalato, adesso io sto raccogliendo tutto, ma non solo per il rapporto che io avevo con Bonanno, anche l'avrei fatto comunque, un tale Carlo Pallavicini, consigliere comunale di Piacenza di Rifondazione Comunista, che ha scritto: quando muore una merda che semina odio, le persone per bene sono felici. Questo ha scritto consigliere comunale a Piacenza. Si dovrebbe dimettere il consigliere comunale, si dovrebbe dimettere il professore universitario. Uno può pensare le peggio cose, ma se rappresenti dei cittadini e se dovresti educare al futuro degli studenti e scrivi delle robe del genere, sei un verme. Tu come consideri tutti quelli che dicono Bonanno ne diceva di tutti i colori, diciamo, in vita, e abbiamo il diritto di dire che lo odiamo e di essere anche contenti della sua morte? No, mi fanno pena quelli che esultano alla morte di qualcuno, mi fanno pena. La politica deve arrivare fino a un certo punto, poi c'è il rispetto per la persona, per i figli, per la mamma, per la moglie, quindi non è politica quella, è idiozia. Guarda, ieri ho ringraziato Renzi piuttosto che Di Battista. Ma ti ha chiamato Renzi per questa roba? Cioè, sì. Ti ha chiamato personalmente? Da cui mi divide il mondo, però ho apprezzato la sua telefonata, ho apprezzato l'SMS di Alessandro Di Battista, tanti altri messaggi. Un conto è la visione del mondo diversa. Sì. Un conto è il rispetto nei confronti di un padre di famiglia che poteva piacere o non piacere, che è stato un grande sindaco, che ha detto ai suoi concittadini. Ma è stato rieletto più volte, dunque sicuramente qualcosa di buono aveva fatto. Ma al di là di questo, a me, come al solito, non piacciono la santificazione delle persone, non piace. Dunque uno ha anche il diritto di esprimere odio, purché poi abbia il coraggio di manifestarlo e di non fare il coniglio, naturalmente. Cioè uno può anche odiare e può pensare che la morte di Bonanno sia una buona cosa, c'è gente che ha brindato, ho visto sul fa web. Schifo, però. Fa schifo moralmente. No, ovviamente per me, figurati. Si può dare un giudizio morale, cioè, su questa gentaglia. Per esempio, io non sopporto politicamente un sacco di gente, ma non, cioè, la vita umana è un altro discorso. Ma scherziamo. Poi, guarda, mi dividevano tante cose, tanto da Pannella quanto da Casaleggio, ma nel momento della morte c'è il cordoglio, c'è la preghiera per chi crede, e basta, il resto è un di più. Senti, ma torniamo alle elezioni. Tu tempo fa, qui alla Zanzara, non solo alla Zanzara, hai detto una frase su un eventuale ballottaggio che adesso si è verificato, quello tra Raggi e Giachetti. Adesso è realtà questo ballottaggio. No, la Meloni non ce l'ha fatta, lasciamo perdere, adesso poi parleremo anche di Berlusconi. Però, ora, sinceramente, perché alla fine tu hai detto delle cose, era un mese fa, una ventina di giorni fa, darai un orientamento di voto? Non è che hai preso granché a Roma, siamo nell'ambito del 2,5%, ma comunque, tu fossi Salvini a Roma, chi voteresti al ballottaggio? Tu personalmente, diciamo, tu non voti a Roma, mettiamo... Difetti. ho tanti difetti, ma non quello di cambiare idea una volta nei 15 giorni. Quindi ringrazio i romani che ci hanno votato e, come detto in passato, ripeto oggi, non sono proprietario dei voti di nessuno, sì, ma sicuramente non voterei mai per un uomo di Renzi. E dunque voti la Raggi, cioè voteresti la Raggi? Io voto a Milano e quindi voto pa. Pronto? Pronto, pronto, pronto. Pronto. Adesso ci ricolleghiamo. Ho sentito che vota sale. Ivano, chiaro. Bologna, Ivano. Buonasera, Ivano. Ciao, dimmi, sono Ivano. Dimmi. Sì. Dimmi. Volevo dire, io mi sono sentito anche un po' in colpa nel provare questa emozione. Però effettivamente l'ho provata. Emozione, sì. Quando ho saputo, perché l'ho saputo stesso adesso, da 5 minuti, appena ho iniziato a... Cioè, non sapevi che cosa, scusa? Che era morto l'onorevole Bonanno. Uno non è tenuto a essere collegato. Emozione provato, scusa. E tu hai provato emozione, sei contento? Sì, devo dire, me ne sento in colpa, lo so, perché è una cosa brutta e cattiva, però me ne sento veramente... Che paese, cioè, barbaro che è. Io ne godo, ho scritto un post su Facebook, cattivo, nel quale godo, ho scritto che godo per la sofferenza dei suoi e per stai scherzando adesso. Siamo al cinismo più assoluto, no, è un'emozione che mi ha preso così, non so che cosa vi devo dire, che vuol dire un'emozione che mi ha preso così? Persona, non è mica semplice, lei è proprio una brutta persona. Aspetta, io posso capire, non sono una brutta persona, una brutta persona. Non confesserei questo, ma perché sei contento? Perché sei contento della morte? Perché mi ha indignato per anni e anni per televisione e avrei avuto tante volte la voglia di rispondere, di dirgli guarda stai dicendo una cazzata, guarda stai dicendo una cazzata, guarda, e non ho mai avuto, e adesso questa sua morte è l'unico modo mio per rivalermi su una serie di cazzate che ho sentito da parte sua. Sì, ma tu capisci che c'è una sproporzione tra queste cose, cioè tu puoi anche provare un senso di ripulsa, un senso di disgusto nei confronti delle cose che dice Buonanno, però la democrazia è anche questa, accogliere l'estremo. Cioè, hai qui... ragione. La contentezza per la morte di una persona, uno la può provare se questa persona rappresenta veramente un grande pericolo, secondo lui, per l'umanità. Evidentemente tu consideri Buonanno un pericolo. Cioè, questo di pancia, è il punto. Di pancia, sì. Di pancia lo considero un pericolo. Buonanno un pericolo, però, oggettivamente, è un'esagerazione. Cioè, Buonanno è uno che aveva delle idee che, peraltro, secondo me, al di là della comicità, al di là di alcuni scivoloni, eccetera, erano delle idee abbastanza condivise da una buona parte degli italiani sugli immigrati, sui rom. Questo non giustifica quelle idee. No, non perché è che la maggioranza, era, ma assolutamente, anche il fascismo è un grande battutista. Era un grande battutista, tra l'altro. Era uno che c'era una battuta pronta. Era un personaggio goliardico. Sì. Non credo, ma poi tu dici che godi per anche per i familiari. Perché? Non lo so, sì, io ti apro il mio cuore, cioè ti dico proprio ti apro il mio cuore, la tua fogna, non il tuo cuore, no? La tua fogna, perché se tu dici, ma se tu dici che godi perché per la sofferenza dei familiari, cioè amico mio, cioè godi per la sofferenza dei familiari, sei una bestia, un animale, una testa di cazzo, sei ufficialmente una testa di cazzo, o no? Va bene, grazie, io ho semplicemente espresso quello ma che ma non trovo. Hai espresso, è come dire, vabbè, sono contento per la sofferenza che i familiari soffrono, vabbè, ho espresso la mia idea, appunto. Vabbè, perché non voglio pigliare male parole con te. Che significa questo? Adesso ma che ti sei fatto una canna? Che voce c'hai? Sei fatto un po' una canna oggi o no? Che voce c'ho? No, ho bevuto un po', francamente. Hai bevuto un po'. Ah, ecco. Mamma mia, ragazzi, non se ne può più. Fermo, adesso ricominciamo con Salvini, se lo riprendiamo. Fermo. Allora ragazzi, siamo con Matteo Salvini, è lunedì oggi, segretario della Lega Nord, e dopo Buonanno le elezioni. Allora, bisogna essere molto chiari. Allora, Matteo, a Roma tu voteresti la Raggi, diciamo la verità. Sì, sì, ma non senza secondi fini, ma questo discorso vale anche per Torino. Quindi anche a Torino, dove avete preso... Non voterei né per Giacchetti né per Fassino, poi ognuno fortunatamente è libero di scegliere, sì, di dare il suo voto senza aspettare Salvini. Questo è il mio piccolissimo parere personale. E secondo te i leghisti, diciamo, comunque chi ha votato per la Lega o liste simili sia a Roma faranno che a Torino, scelta, che cosa faranno? Ovviamente non ma si guarda, può sapere, ognuno fa quello che io vuole. Io controllo, cioè, il mio voto, se qualcuno mi chiede un consiglio gli dico cambiare. Cambiare chi ha mal gestito Roma piuttosto che Torino. Cioè tu non darai indicazione di voto, per esempio? No, non mi permetto, non sono proprietario della scelta di nessuno. Se qualcuno me lo chiede, gli dico liberamente, non voto sicuramente per il PD. Non votate. Quindi, per il PD, dirai a chi te lo chiede, non votate per il PD. Ma guarda, alcune battaglie di onestà e di trasparenza dei 5 Stelle sono anche mie, quindi sicuramente rispetto alle occupazioni di potere del PD tanto a Roma quanto a Torino sarei curioso di vedere all'opera i 5 Stelle. Cioè sarebbe Stelle, meglio vedere all'opera i 5 Stelle sia, glielo darei. Sia a Roma che a Torino, vedere quello che fanno sia a Roma che a Torino. Sì, sì. Senti, Berlusconi invece ha detto che a Roma andrà lì, almeno oggi credo, e voterà scheda bianca. Berlusconi a Roma, scheda bianca. Libero di farlo, se Berlusconi avesse scelto di tenere il centrodestra compatto ci saremmo noi al ballottaggio. Quindi se tu che è tutta colpa sua quello che è successo a Roma. Vabbè, gli elettori hanno dato alla Meloni il 20%, a Marchini il 10%, quindi chi poteva arrivare al ballottaggio lo capisce anche mio figlio. Sì, anche se i voti non si possono sommare. A voi pochino però ha dato direttamente la lista. Voi anche a Milano come Lega avete preso una piccola scopoletta, perché lì Forza Italia a Milano... Vabbè, a Milano io mi limito a ricordare, se la matematica non è un'opinione, che il 12% la Lega non ce l'aveva da 15 anni, mi sembra. Però ti aspettavi di più, Italia, che davi per morta. Potevamo prendere di più, ti aspettavi di più, dai. Meglio. No, ma anche tu ti aspettavi di più a Milano, dai, ti aspettavi di più e non pensavi che la forchetta solo del 2%, potevo crescere forse... del 10%. Abbiamo scelto di fare di sacrificarci per la città e quindi è una forse... scelta che farei 6 volte. In che forse senso la Ruspa si è fermata a Gallarate, ma forse, in che senso? Nel senso che Parisi ovviamente è un candidato bravo, di spessore, con dalla Lega, che mi auguro diventi sindaco fra 15 giorni, che sosterrò con tutte le energie che ho in corpo, che ovviamente non ha oscurato non un po' la battaglia della Lega, ma va bene così. Milano secondo è troppo me... importante per fare battaglie personali. Secondo me gli alleati di Parisi chiederanno a Salvini di star buonino durante il ballottaggio, secondo perché hanno paura che spaventi i moderati. Ma guarda, io fra Bologna, Grosseto, Savona, Novara, Trieste, Pordenone, Cascina... Pensa che a Cascina, in provincia di Pisa, dove il PD ha sempre vinto col 60%, li abbiamo portati al ballottaggio con la Lega al 23%. Sì, e poi bisogna vincere, quindi... però. Sì, anche a Bologna avete fatto un gran risultato. Non mi annoierò. Certo. Senti, Bologna, ma io dico, non ho capito, è tutta colpa di Berlusconi allora quello che è successo a Roma, o no? Ma lì gli errori sono stati fatti da parte di tanti, me compreso, ci mancherebbe, ma quando hai un candidato in che cosa hai sbagliato tu? Meloni in campo... Tu cosa hai sbagliato? Io ho sbagliato a fidarmi della prima scelta su Bertolaso, che poi si è rivelato per quello che è, ovvero sia lo zero, e quindi lì ho sbagliato anch'io. Ho capito, però il risultato è che il centrodestra è fuori dal ballottaggio. Il risultato è che Giachetti è andato al ballottaggio. Se Berlusconi avesse scelto come naturale i suoi due alleati, Meloni e Salvini, al ballottaggio ci saremmo noi. Ma l'ha fatto noi. Apposta, secondo te, per favorire un po' Renzi o no? Ma non lo so, sicuramente ha favorito Renzi, cosa che io andavo dicendo da settimane. Cioè il risultato è che ha favorito Renzi. Vabbè, è evidente. Ma vi siete sentiti oggi col Berlusco o no? No. Ho sentito tanta gente, ma non Silvio. Non gli hai mandato un messaggino? Comunque guarda che il tuo amico Mastella, alla fine, che tu dici Mastella eccetera, alla fine a Benevento è andato al ballottaggio, Non è la mia idea di futuro di Italia, di centrodestra. Se qualcuno preferisce Mastella o Gianfranco Fini, è una scelta alternativa a Salvini. Però ti voglio fare un'altra domanda che riguarda non c'entra niente con le elezioni, ma il canone della RAI. Fra poco si paga il canone della RAI, si dovrebbe pagare il canone RAI. In tu bolletta. Lo pagherai o no? In bolletta. Guarda, l'unico mio possedimento abitativo, che sono un 25 metri quadri a Milano, per cui ho il contratto dell'energia elettrica come da regolare cittadino, non ha il televisore, perché non ho il televisore e quindi non lo pago non possedendo il televisore. Cioè non pagherai il canone perché non c'è il televisore a casa, non ho capito. Non so, devo pagarlo se non c'ho il televisore. Come fai devo a essere? Perché c'ho il frigorifero. Vabbè che ci sei sempre in televisione, però non ma hai il televisore. Quando metto a casa, dai, adesso va bene tutto. Cioè quando tu abiti a Milano in 25 metri quadrati? Quando sto a casa non guardo sicuramente la televisione. Cioè tu abiti a Milano in 25 metri quadrati? No, quello è il monolocale che sto finendo, poi abito a casa dei miei sostanzialmente. Sei tornato a casa dei tuoi? Un ritorno all'antico. Dove viveva mia nonna. Dove viveva la nonna Agnese Mantovana. Ma spero da solo, però. Cioè, nel senso che non dividi la casa con altri. Cioè, non fai squatting. Cioè, no, squatting è l'occupazione, in realtà. Cioè, non fai la. Cioè, non dividi l'appartamento. Pronto? Pronto? Pronto? Cucù. Cucù. Cucù. Cucù. Scusate se vi ho disturbato. Vincenzo Salerno, vai. Ha richiamatelo, vai, che devo dire questa cosa. Vincenzo, vai. Ma dove sta andando? Dov'è? Che ne so, boh. Vai, Vincenzo, dimmi. Pronto, mi senti? Sì, ti sento, dimmi, dai, forza. Dunque, premesso che in tempo di pace non si augura la morte a nessuno, in tempo di guerra i nemici si ammazzano, quindi non togliamo ogni possibilità di fraintendimento. Visto che stai in linea con Salvini, vogliamo aggiungere qualche altro imbecille alla tua lista? Cioè a tutti i sostenitori di Salvini, che ogni volta che muore un immigrato festeggiano sul suo blog. Allora? Sì, sì. Vogliamo domandare. Sì, adesso. Imbecilli, adesso glielo chiedo. Adesso glielo chiedo. È qua. Allora, Salvini, c'è questo ascoltatore che dice: moltissime persone sul tuo blog, quando muore un immigrato, sono contenti. La stessa cosa che qualcuno esprime nei confronti di Buonanno dopo la sua morte. Un altro mi ha scritto dicendo: Salvini, però, non dice che quando attacca in maniera molto forte la Fornero, ci sono persone sul suo profilo Facebook, eccetera, eccetera, che si augurano le cose più atroci nei confronti della Fornero. Che dici? Come rispondi a queste persone? No, quando li becco li banno, li elimino, li cancello, li oscuro. Ma sicuro? La situazione alla violenza non esiste mai. Io mai mi permetterei di gioire per la morte di nessuno. La battaglia contro la legge Fornero è una battaglia politica, okay, però è una legge infame. Qualcuno sostiene che dicendo delle cose sulla Fornero istighi le persone agli istinti più violenti nella confronto. È una legge sbagliata, questo vuol dire. Quando che tu dici che quella deve andare in esilio. Capito. Secondo me ha fatto dei danni inenarrabili e dovrebbe aver vergogna a chiedere scusa e non andare più in televisione. Detto questo, le auguro di campare fino a 120 anni, ma mi auguro brevissima vita alla sua legge. Detto questo, non le torcerei un capello se la vedessi per strada, ovviamente, sì, come persona normale. E quindi quando affonda un barcone, io mi incazzo con chi fa partire quel barcone, ci mancherebbe altro. Senti un attimo, io voglio sapere una cosa, ma io non ho capito bene dove abiti, però, perché si è capito male. Adesso ti devo dare l'indirizzo, così no, l'indirizzo no. No, no, i metri quadrati. Già li trovo in giro. I metri quadrati. No, abito in un bilocale a Milano. Ah, in un bilocale. Ma in un bilocale, vabbè. Ma in bilocale a Milano. Metri quadri? Se mi permetti, ti evito l'indirizzo in Cirico. No. I metri quadri? È pieno il mondo, in zona 7, periferia di Milano. E metri quadri? 35. 35. 35. 45. 45. E camera. 45, va bene. Qualcuno mi ha detto sì, angolo cottura. No, chiedo, ma ormai sono tutti. No, ma questo mi interessa. No, ormai sono tutti angolo cottura. È un no. Primo piano con le sbarre alla finestra, perché ormai purtroppo a Milano se non metti le sbarre alla finestra. Stanno meglio piano. In un campo rom, allora. No, al campo rom ci vai tu. Scusami, no, con le sbarre alla finestra, amico mio. No, volevo chiederti, scusami, questo mi interessa molto, cosa mangia Salvini? Ma che cioè, mangerà fuori, non è che mangia a casa. Il kebab lo prendi mai quel take away? Ho mangiato delle polpette, se vuoi, adesso in Bravo. Treno. E il cinese, tipo il cinese, sai quelle... Non mi dispiace il giapponese. Io adoro il pesce, preferisco il pesce che ho mangiato a Gallipoli, se devo essere onesto. Te credo. Però se è fresco non mi piace il pesce in ogni forma. Però il kebab lo hai mangiato, ottimo, benissimo. Salvini due punti, ho mangiato il kebab. Beh, no, chiamo un attimo il direttore napoletano. Io sono stato in vacanza in Grecia quando ero giovane a Skopelos e a Schiatos, e lì si chiama gyros. C'è anche una ghireria buona a Milano. Bravo. Senti, no, volevo chiamare napoletano per dire che Salvini mangia il kebab. Però c'è una cosa, sono amici Salvini napoletano. Ma guarda, io ho assaggiato il couscous, ho assaggiato di tutto nella vita, sono curioso. Era uscita fuori la notizia tempo fa che tu avevi due conti, uno a Roma e uno a Milano, o no? Due conti sì, è vero. E quanto c'è in questi conti? Guarda, su quello di Roma, di cui ho fatto il saldo ieri l'altro perché ho prelevato i miei 250 euro, ero a 16.000 euro. 16.000? Per farmi i cazzi miei. Sì, e Milano? Quello di Milano dovevo chiamare il buon Roberto per capire a che punto chi siamo. Chi è Roberto, il consulente? Chi è? Sì, banchiere. Vabbè, ma quanto siamo? A zero? A positivo? No, beh, buon Dio, mi auguro di no. Non mi sono arricchito, però spero di lasciare ai miei figli qualche Ma quanto godine. Hai a Milano? Che ne so, 20.000, no, 30.000, 100.000? Sparare, le cose trasparenti. Assoluta, no? Cioè 100.000, 200.000. La cosa di cui mi occupo poco sono i soldi. I conti. Cioè tu con la politica sei non ti sei arricchito. Beh, no. Penso se avessi fatto qualche altro lavoro probabilmente meno esposto, magari anche il giornalista avrei risparmiato qualche attacco e magari avrei guadagnato di più. Però me la sono scelta, nessuno mi ordina di farlo e sono contento. Cioè, alla fine sei uno abbastanza povero, diciamo, cioè non sei i poveri sono altri, dai Beppe, non fortunatamente non mi lamento. Vabbè, a Milano non mi vuoi dire non mi vuoi dire a Milano quanto c'hai sul conto corrente? Se mi dai un quarto d'ora te lo so dire, adesso non ne ho la. Vabbè, mandami un messaggio, che è possibile che uno non sa quanto c'ha sul conto corrente, cioè, che ne so, ma non qualcuno... penso di essere l'unico ascoltatore che non controlla le bollette, che ne so, 200.000, 250, 300, 400. Ma magari 100.000, meno di 100.000. Temo di non essere a quei livelli lì, purtroppo. Meno di 100.000. Hai qualcuno che ti fa le pulizie a casa, una domestica, una, ma che te ne frega? 5 metri quadri posso pulirmeli anche da solo. No, perché Cruciani ha questo cingalese poverino che viene. Non ho la collaboratrice. Io non ho nessuno, parenzo. No, che Cruciani dici? C'ha questo cingalese che peraltro gli ha messo una cosa, capito, al ma piede. Se uno c'ha 200 metri quadri magari c'è un problema, ma se uno vive da solo in 45 metri quadri... No, questo lo capisco, certo. No, io non ce la faccio. Dovessi vedere come tratta il cingalese ma Cruciani. Non è vero. Guarda, una volta era imbarazzante. Ma non è vero. È lo stesso rapporto che gli inglesi avevano con gli indiani. Intanto si fa chiamare sir dal cingalese. E gli ha messo... Non immaginare il codazzo che ha Parenzo. No, io Parenzo no. Almeno due, una persona fissa, no, persone a turno, no, che vanno a pulire la casa, vergogna. Ma che a turno, vergogna. Mica lo critico, ci mancherebbe altro. Mica c'è Buckingham Palace. Vabbè, ciao ragazzi, ciao. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Buon anno, prego. Grazie signor Presidente. Guardi, io guardando l'orologio ho visto che oggi è il primo di aprile e mi è venuto in mente che poteva essere uno scherzo questa discussione con quello che il governo ci propone, con quello che la maggioranza vuole fare. E ancor di più ieri quando ho sentito la Presidente della Camera fare certe affermazioni in difesa dei clandestini rispetto a chi va negli alberghi a 5 stelle. Allora noi non pensiamo ai nostri pensionati che magari mangiano acciughe, non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato che sia giusto, qua c'è una spigola. No collega, rimuova spigola, quella spigola, chiedo ai commessi questo di intervenire, la richiamo formalmente, la richiamo formalmente. Collega Bonanno, abbassi. Collega Bonanno, la richiamo per la seconda. Collega Bonanno, lei è espulso dall'aula. Allontanate il collega Bonanno dall'aula. Forza, forza. Allontanate il collega Bonanno dall'aula. Deputato Bonanno vuole intervenire, prego. Sì, signor Presidente, sull'ordine dei lavori. L'articolo 41 del regolamento. Io ho aspettato, sono passate 24 ore, signor Presidente, io volevo sapere che fine aveva fatto la Dicentrarcus labrax, cioè in maniera più volgare spigola, branzino o ragno di mare, perché mi è stata confiscata, io volevo sapere dove era finita e se qualcuno l'ha mangiata, volevo Onorevole sapere che almeno Bonanno, la lisca fosse messa La smetta, non disonori quest'aula, basta, andiamo avanti. Vi ringrazio ancora tutti, ringrazio la Presidenza, mi dispiace che non ci sia la Presidente Boldrini perché l'avrei voluta ringraziare in maniera sincera, perché se io oggi sono eurodeputato lo devo anche a lei per come mi ha trattato. Grazie ancora a tutti, arrivederci. Dopodiché, allora adesso io ho imparato che i rom, gli zingari sono il massimo di quello che c'è in Italia, della correttezza, eccetera, eccetera. Tutti gli altri no. Sono la feccia della società. La feccia della società. Sei un razzista. No. Ciao, grazie. Sei un razzista. No. Fai queste affermazioni, sei un razzista, no. Perché ma la signora sono la feccia della società. Scusate, no. E tu sei un razzista. No, il problema razzista non è Casa Pound, il problema della Lega sono quelli come te, che sei proprio razzista Bravo. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. L'unica cosa che ha fatto Vendola è che al limite ha dato una mano al suo compagno, cioè ha usato una mano, perché sodomia e libertà alla fine fanno quello, cioè che cosa deve fare? Vendola non ha fatto niente, cioè di quel bambino di Vendola non c'è niente, l'unica cosa gli avrà dato una mano. dico, non è possibile, non è possibile. Gli offro una banana, magari. Se sono gentile, io li faccio accomodare, gli offro una banana. Magari vogliono un'insalata di finocchi, non lo so. Va bene, dove andiamo? Salerno, Vincenzo, vai. Pronto? Dai, dimmi, forza, vediamo se si sente adesso. Però, Cruciani, ti ho visto troppo moscio con Salvini. Sì, vai, sì. A dare un'occhiata su Facebook, vai a controllare le croci dei nazisti, i forni crematori che stanno lì in Bella Vista. Vabbè, li cancellasse lui, ma che vuoi che ti dica io? Li cancellasse lui, dice lui. No, dice... non è senso, diciamo tutti insieme che sono una banda di imbecilli. Vabbè, poi? Poi? Ma l'ultima cosa, visto che stavi in diretta, no? E Salvini diceva che non campa di politica, magari gli ricordavi. No, veramente al contrario, ha detto che campa di politica. Pronto? Sì, ha detto che campa di politica, Vincenzo, è diversa la cosa. Comunque, allora... campa anche bene, perché non avendo nessun titolo culturale o anche professionale... Vabbè, Vincenzo, dai, forza, dimmi. Disoccupato. Sì. Sì, perché... Vabbè, ciao, facendo... Giuseppe Pescara, vai. Giuseppe? Pronto? Dimmi, Giuseppe, dai. Grande, Luciano, sei un angelo demoniaco, sei riuscito a fare una trasmissione su Buonanno. Secondo me è lui che ti chiama adesso e ti sta dicendo come fare... come tu facevi con lui. Guarda, secondo me però tutto quello che sto impostato fa ancora capire una volta che tutte le discussioni che avvengono lì alla Zanzara sono un po', non dico combinate, ma sono fatte ad arte per fare trasmissione, questo lo sapete. Sì, anche sicuro, voi, siamo fatte, tutto fatto ad arte, guarda, tutto costruito. È un po' come il wrestling che stai facendo un po'. Perché, vabbè, Giuseppe, che cosa hai chiamato a fare? Spiegami, che cosa hai chiamato a fare? Dimmi, cosa vuoi da me? Perché stai facendo una trasmissione piena di ipocrisia. Perché Parenzo da Buonanno è stato toccato nelle sue corde più importanti, cioè se un e allora? Dice ho capito, ma come fa Parenzo a dire no, adesso mi dispiace davanti no, alla... Io ho detto semplicemente che io mi fermo di fronte alla morte, ma quello che pensavo io delle sue idee, l'ho detto, e non è che ho cambiato opinione, io non ho cambiato opinione, io penso davvero che lui sia stato uno dei, un razzista per certe cose che ha detto, sicuramente. Sto parlando della propria razza, dei propri origini, tutto quanto. Se uno ti tocca e dice che gli ebrei devono essere sterminati, uccisi, l'olocausto e tutto, tu non puoi dire ah vabbè... No, a parte che non l'ha mai detto, l'avesse questo detto, allora non dire stronzate, dai. Simone Milano, dai, Simone. Ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao Giuseppe David, ciao. Ciao. Su Buonanno, soltanto che sono stato anticipato da molte persone, non vorrei essere ripetitivo. Vai, dimmi. No, volevo dire che per una volta, io che sono sempre contro David, diamogli un po' soddisfazione, perché c'ha ragione in pieno. Su che cosa? La vita su umana. Tutto. La vita umana va sempre rispettata, mai augurare la morte, essere contenti che qualcuno muoia. Ah, dipende da chi è. Lui si è augurato e ha esultato per la morte di Priebke, perché evidentemente esultato, considera... Detto... Vabbè, eri contento, dai, perché consideravi Priebke un assassino, un criminale, eccetera, una cosa un po' diversa da chi è. Priebke ha ucciso. Non potete Priebke... dire dell'ipocrita. Davide non è un ipocrita, Davide è troppo grande, perché uno che lui, diciamo, tra virgolette, odiava, tra virgolette, uno con cui non si è mai trovato d'accordo, però davanti alla morte... Se tolto il cappello e ha fatto le condoglianze, non è un ipocrita. Vabbè, stato un'ipocrita. Ma guarda, che io ho ricordato che in anni passati Almirante andò sulla tomba di Berlinguer. Cioè, e parliamo di Almirante, che comunque era un signore. Grazie, sicuramente... Simone. Roberto Padova, vai, Roberto. Cruciani, ciao. Dimmi, Cruciani, dimmi. Grandissimo. Senti qua, io ho un'osservazione importante da fare. Che osservazione c'hai? Dimmi. Io ti capisco, però se tutte queste persone alla morte di Buonanno manifestano incazzature varie. Sì. E significa che qualche motivo c'è. Ma ragazzi, che è la cloaca. Ma no, significa, ma Buonanno ne ha dette di cotte di crude nella sua vita, ma non c'è dubbio. Dunque, probabilmente ha stimolato l'odio di un sacco di gente. Ho capito, ma cosa c'entra questo? Erano sempre idee. Cioè, non ha quello che ha detto qualcuno oggi, cioè che lui ha istigato la violenza, è una puttanata. Cioè, non c'è qualcuno che dalle parole che ha detto Buonanno è andato a picchiare gli extracomunitari, è andato a picchiare i gay. Per fortuna, no, in passato è successo. Ma le condizioni perché la gente. successo. Ma un sacco di volte erano battute, in, no, su, passato, dai, io lo conoscevo benissimo. In passato, erano... però è successo che un signore si chiama Renato Curcio. Ma che c'entra, dai, ma, ragazzi, ragazzi, non diciamo stronzate. In passato è successo che dalle parole si è passati alla violenza. Lui faceva su argomenti che gli interessavano, che erano su cui la gente si incazzava, gli extracomunitari, faceva il grande teatrante. Questo era il punto fondamentale. Sì, d'accordo, però qualcuno, qualche capolavoro l'ha incendiato. Ma chi? Qualcuno incendia i campionomedi per quello che ha detto Buonanno, ma non dire forza, ma chi è che ha mai incendiato il Camponomadi? In passato ci fu un episodio in provincia di Torino, ma, peraltro, ma che c'entra? Ma mica con le parole di Buonanno, dai, ragazzi, non c'entra Buonanno direttamente con quella cosa, dai. Ovviamente Buonanno non era un violento, nessuno di noi lo dice. Vabbè. Però il fatto che quelle parole generassero razzismo, su questo non c'è un mai di dubbio dal mio punto di vista. Poi dopo figuriamoci. Enrico Bertolino con noi, buonasera, buonasera, ciao, basta, ciao, ragazzi. Ciao Giuseppe. Non ne posso ciao, più, David. Non ne posso più, ciao, di Buonanno, ciao, ciao, non ne posso ciao, più, ciao. Non ne posso più. Lo so, però è una cosa che è accaduta, è una cosa che accade. Lo so, anche la morte, sai che la morte spesso di personaggi controversi suscita, soprattutto sul web, su internet, un internet. Casino pazzesco. Ma come stai, Bertolino? Io sto bene, io sono vivo. Al perché momento, ho saputo di quell'operazione alle emorroidi, volevo dirti che mi... Quella lì sì. Io la faccio ogni anno, è una pratica che faccio ogni anno. Ma come, se non ce lo dici che no, ti sei portato... Scusa, dove fai? Tu ti capita di fare la pipì nel lavandino? Bertolino, ma guarda, capita spesso perché noi anzi, soprattutto in Inghilterra dove non c'era il bidet, si usufruiva di quello che c'era, lo si fa e poi si pulisce. Come si fa, Bertolino, ti prego, almeno tu, Enrico, amico mio, l'ha fatto ogni tanto. Almeno non l'ha mai fatto, è un signore di un'eleganza. Ma Giuseppe, se ti tanto ti dice che l'hai fatto lo stesso. No, esatto. Non è vero, non è vero. Bertolino, senti, è una persona elegante. Ma invece come sotto si la muove, doccia. No, io sono stiloso, io cerco un bagno e non mi fermo mai, soprattutto in autostrada. Ecco, piuttosto mi prendo un attacco di prostata, ma veramente, ma non scendo, cioè, ti fa schifo. Bravo, bravo. No, mi inquieta, perché poi quando li vedo io li critico, no? E allora non posso farlo io. Ma per esempio sotto la doccia, ti capita di fare la pipì sotto la doccia? Un altro grande tema, questo grande tema della zanzara di tutti. Sotto la doccia. Bello, stupendo. Escludendo la palestra per un fattore anche di rispetto nei confronti degli altri, certo. Però su casa tua, cioè, Oggi è la libertà del comunismo, hai capito? Il comunismo permette queste cose. Allora, dovete sapere che al Teatro Nuovo a Milano, 7-8 giugno, cioè domani e dopodomani, ho finalmente un po' di promozione. Benissimo. C'è uno spettacolo, no? Uno spettacolo che si chiama Vota Tu, che a me mi viene da ridere, dove ci saranno i due candidati a Milano, i due candidati sindaci. Beh, domani, esatto, c'è? Domani c'è sala, dopo domani. Lotto Parisi. Adesso però, Lotto Parisi, ci saranno delle domande, sarà uno spettacolo anche comico, naturalmente. È uno spettacolo che è su Milano, una specie, noi lo abbiamo chiamato Instant Theater, cioè teatro di cronaca. Cioè tu prima parli di Milano, cos'è Milano, il significato di ballottaggio che molti sanno, non sanno esattamente. Ma adesso dove che per la gente come ignorante, non ho capito. Da dove deriva, dell'origine. Da dove nasce, nasce da queste ballotte, dalle castagne che venivano nella Firenze antica, per eleggere i maestri dei priori, venivano tirate fuori da un sacchetto, si contavano poi le ballotte. E poi uguale con i doggi, che andavano a prendere chiamato letteralmente il primo mona che passa, prendevano questo, lo tenevano dentro, gli facevano fare un'estrazione di balle a lettera 4 volte perché non ci fossero, poi i potenti andavano davanti a un palazzo che si chiamava il Palazzo del Broglio e lì cercavano di ricomprarsi i voti. Ecco, vedi, perché si parla di broglio. Ne sa più di noi che assolutamente fa il comico, ma in realtà domani dirò ste cazzate qua. Ma sì, è già finito lo spettacolo, così poi dopo arrivati a un certo punto salgono i candidati, intervista come viene chiamata vestita. Con tanto di colori, con tanto di foto, con una canzone, test di milanesità fatto ai due candidati. Molto buono. Poi il pubblico giudicherà, cioè è uno spettacolo dedicato. Sì, però tu non puoi sfuggire a questa domanda. Tu molto che bene. Voti a Milano? Io voto a Milano, certo. E chi voti? E tutti e due. Io voto uno. Ho capito. E ragazzi, si deve lavorare, non come voi che avete i contratti già firmati in tasca. Io devo ancora lavorare. Ma non è che se dici che voti uno o l'altro perdi i contratti. Io sono amico di Beppe Sala da quando era più giovane. Dunque voti per Sala, diciamolo. Ho avuto piacere che chiamando poi il comitato di Parisi, ma hanno accettato pur dicendo sappiamo che giochiamo fuori casa. Dico, ma vale doppio in media inglese. Ma non c'è niente di male. Voto Sala, ma intervisto tutte. Ma certo, sì, ma Beppe lo voto perché lo conosco da una vita. Senti, io non ho capito, non ho capito una cosa, ma ottimo questo, la cosa Bertolino di Benigni, Sibati, la cosa di Benigni. Sì, come sì. ti è sembrata una, te, un'ipocrisia? Cioè... No. E il problema è che si è spostato tutto questa storia delle votazioni, si è spostata sui conflitti personali. Cioè i programmi sono andati in batteria, cioè, e allora si dice Benigni sulla Costituzione, per esempio, tutta la gente fa sì o no, ma sì o no non è più la Costituzione, ma è a Benigni o a Renzi. Sì, però esatto. Secondo te lui ha fatto un po' il paraculo per ingraziarsi Renzi? Lui è un, no? è un revisionista allegro, il giullare, poi tenete presente che il giullare nella sua accezione più positiva, ogni tanto se il re prendeva in mano la sciabola cominciava a temere un attimo, e due o tre giravolte le faceva. E dunque? E dunque secondo me una piccola giravolta c'è stata, però lui ha espresso un parere suo sul fatto che la Costituzione gli va bene così, ma si può anche cambiare. È un filo in contrasto con quella precedente, che andava benissimo così. Esatto. Parlava della seconda parte. Ma questo, secondo te, un po' per compiacere il potere? Oppure, non ne ha bisogno, tu hai parlato di giullare? No, però. Ma i giullari, cioè, lui è un giullare di quelli che potrebbe andarsene anche a Miami a vivere, cioè. Sì. Cioè non ha bisogno, però sai queste cose, anche se non hai bisogno, io ci ho riflettuto un po' su questo, anche se non hai bisogno, hai una naturale predisposizione magari. Io, no? Io per esempio, io per soldi cambio idea, cioè non so tu no. Io guarda, non me ne va. E onestamente, dai. No, io credo. Io non ce la faccio. Io mi vesto anche da melanzana. No, ho detto che per 200.000 euro me lo facevo mettere dietro, figuriamoci. 200.000 euro? Perché tu per 200.000 non te lo faresti mettere in quel posto, non ho capito. Ma guarda, io ci ragiono un attimo, però voglio chiedere prima di Nolfi, perché non so come la pensi. 0,6 a Roma, 0,6. No, è prefisso 0,6 in realtà. 0,6 ragazzi, no, 0,6, la Martani 24 voti, voti, la Martani, l'animalista. Candidatevi voi. Sicuramente voi, pigliamo più voti da Di Nolfi, guarda, 7.000 voti a Roma. Io sfido chiunque a prendere 7.000 voti a Roma. Caro Mario, se mi candidavo io lista Zanzara a Roma, altro che 7.000 voti, almeno 50 li pigliavo. Ciao Enrico, ciao ragazzi, grazie, ciao, buona giornata, ciao. Ali Bergamo, Ali. Sì, ciao. Dimmi. Mohammed Ali. Mohammed Ali non c'entra. Vai Ali, dimmi. No, forza. Iniziato niente, Ramadan. Volevo manifestare la mia gioia per la morte di Nano del Giardino, come si chiama? Bonanno. Non ho capito, ecco, scusa. In maniera molto semplice, in maniera così, anche con un linguaggio. Sono contento che è morto quel Nano del Giardino lì di Bonanno. Cioè sei contento, Ali, origini marocchine, origini tunisine, che sei? Guarda che non mi chiamo neanche Ali, poi vabbè. Ti chiami come ti chiami. Okay. Non capisco perché devi nascondere il tuo nome. Comunque, no, Faisal, mi chiamo Faisal. No. Faisal, ci dici... No, perché di solito quando lo dico ci mettono tre ore a capirlo, Faisal. Allora Ali è più semplice. Ma no, ma Faisal, perché siamo ignoranti noi, che siamo bestie, che non capiamo. No, Faisal sostieni in sostanza di essere contento, giusto? Certo, sono contento. Contento per la morte di Bonanno. E come mai sei contento per la morte? Lo dici in maniera così semplice, anche con questa voce così pacata. Di solito quando muore qualcuno c'è anche... Ma questo qua veramente era una spazzatura della società, secondo me. Ma come si fa a dire delle cose sane? Ragazzi, però... Lorenzo, io ti voglio un bene della Madonna, credimi. Ecco, capito, amico tuo pure, tra l'altro. No, ma io non ho questi amici violenti, non ho amici violenti io. Tuo fratello maggiore, dice pure, fratello maggiore. Ma non è fratello di nessuno, mio fratello. Signor Faisal è tuo fratello maggiore, ha detto. Mio fratello si chiama Beniamino, non c'entra niente. Ogni volta ti inchini, che hai detto, ogni volta che incontri Parenzo? Mi inchino. Ma per carità, ma amico mio, accetta questa cosa, Faisal. Ma non accetto niente. Il quale? Scusa, devi accettare perché sei una grandissima persona. Sì, continua pure così, va bene. Oggi è morto il male. Il bene è lì vicino. Ma io non direi, non dico, non ho mai detto. Allora, Faisal, quando hai saputo della morte di Bonanno, che cosa hai provato? Tra l'altro io l'ho saputo tramite cioè, alle 6:30, cioè non lo sapevo neanche, capisci? Vabbè, d'accordo, l'hai saputo, che cosa? Sono contento, cioè oggi è stata una giornata molto stressante perché sono anche a digiuno, io sono musulmano, Sì, sono a digiuno pure. Veramente, poi quando ho saputo che quello là è morto, io sono contento, che una volta che interveniva quello là, pregavo sempre Dio che questo qua veniva eliminato perché è una persona troppo cattiva. Perché ci sono quelli là che fanno audience, ma quello là era veramente cattivo, secondo me. Per cui sei più felice oggi? Sì, guarda. Stappa una bottiglia, no? Ma magari c'è il Ramadan, dopo il Ramadan ne stappano due. Dopo il Ramadan stappa una bottiglia. Dunque, il signor Faisal, musulmano di Bergamo, con tutta tranquillità. Sì, proprio, per carità, per con tutta tranquillità. No, ma io infatti sono, io sono felice che quello là è morto. Basta. Parenzo, devi accettare, frate, chiama fratello Parenzo. No, Parenzo, ma può anche non accettarlo. No, però digli fratello Parenzo, ti apprezzo, ti amo, ti esprimi a Parenzo la tua, come ma dire, non esprima niente, io non mi esprima nessuna vicinanza. No, per ma come no, dice Dio, di essere, dice che ti apprezza, io, ti sostiene. Io no, non nulla, nulla con chi dice usa questi termini violenti, nulla a che spartire. Fai sale, digli che sei amico suo, che lo apprezzi. Ma per carità, il bacio della morte. Ma lo apprezzi Parenzo o no tu? Ma Parenzo è una, guarda, io Parenzo, guarda, è una cosa per me, è un'icona. Un'icona, benissimo, abbiamo, capito, però, abbiamo capito tutto. Anche una sua icona, caro Ali, non Faisal, so se si chiama Faisal, scusami, caro Faisal, sarò anche una sua icona, ma io non ho mai augurato la morte a nessuno. E però, vabbè, ma in queste no, cose siete diversi. Però, io non è che auguravo, cioè, beh sì, come no, hai detto ogni volta che lo devi, speravi che è morto, tra l'altro. Un incidente stradale. Ah, quindi quindi? Buono. Quindi buono, allora, buono, buono. Ma come, buono, ma buono che dice? Cosa sta dicendo? È una vergogna, non si può dire così. Ciao, è inumano, ciao, davvero, ciao, è inumano, ciao, totalmente ciao, inumano. Vai, ciao. Se noi diciamo di, voi rispondete vino. Di? Vino. Di? Signor. Zitto. Diciamo elo, voi rispondete im. Elo. Zitto. Elo. Devi stare zitto, devi stare, ti prego, devi stare, vado zitto. Via, no. Sì, sì, vado via. Ho fatto una promessa. Fate al voi, divino. Vado via. No, io no, sto no, zitto. Stai vado lì, via. Stai grazie, lì. A più tardi. No, vado, no, ci aspetta. Domani. No, stai lì. Però devi stare zitto, devi dare. Ci deve fare dei vaticini fondamentali, divino, sui ballottaggi. Dunque, devi stare in silenzio per il momento e ascoltare, facendo quello che vuoi, anche i tuoi soliti grugniti, eccetera. Però voglio sentire il vaticinio del divino sui ballottaggi, perché è una cosa fondamentale. Mi sembra, tra l'altro, divino. Buonasera, divino. Vi salutiamo e benediciamo da Portofino, amatissimi figli. Siamo molto compiaciuti di che cosa? Straordinario successo. Di che cosa? Riscontrato dai nostri vaticini, che si sono tutti perfettamente adesti. Per esempio, divino? Per esempio, Roma, per cominciare dalla capitale, è facilissimo constatare, andando in rete, perché ci sono copiose documentazioni. Sì, sì, di varie interviste. Sia nei podcast, per esempio, del nostro programma quotidiano Un giorno da pecora, certo, sia nel podcast della radio dell'Università Niccolò, sì, Cusano. Che succede lì? Che succede? Che hai e detto? In numerose interviste che riprendono quelle stesse, eccetera, va eccetera, bene? Dove quando Giachetti si era, per esempio, presentato quale possibile e aveva vinto le primarie del PD, noi l'abbiamo effettivamente incontrato già allora, allora parliamo, cosa sarà, due mesi fa più o meno. Ma tu e hai avevamo detto, sì, stai perdendo il tuo tempo, tu non diventerai mai sindaco. Beh, però è andato e a ballottaggio. È una delle ragioni fondamentali, che però ha valenza non solo, sì, capitolina, ha valenza a livello, sì, nazionale, è la seguente. Cos'è? Perché tu, gli abbiamo detto, sei... Sì? L'ectoplasma del duce Puffo. L'ectoplasma del duce Puffo. L'ectoplasma del duce Puffo diventerà sindaco di Roma. Allora, stiamo facendo un primo vaticinio. Questo qua è molto facile, Parenzo. Il primo vaticinio è questo. Tra raggi. Adesso è molto facile. Allora no. Allora no, perché in fin dei conti c'era un centrodestra spappolato, diciamo, sì, pure. Sì. E c'era un, vabbè, un ma il vaticinio di adesso qual è? Appoggiato da un puffo potente, sì, e pronto a tutto, insomma non era poi tanto, no, facile. Vabbè, ma comunque oggi il vaticinio è Raggi, Giachetti, chi vince? Ma ripetiamo quello che abbiamo già detto due, sì, mesi fa, non vi è assolutamente partita dubbio sul fatto che Virginia possa vincere, l'abbiamo detto allora, lo ripetiamo, benissimo, oggi, però vorremmo raccomandare vivamente a Virginia di fare molto attenzione, ecco, ai suoi atteggiamenti, morta, a certe frasi che sta pronunciando, cioè, che sarebbe, per esempio, bene non pronunciasse. Per esempio? Non innervosisca Giorgia, non innervosisca Matteo, io sono nervoso, perché Matteo, loro sono fonti disponibili di voto a suo favore, sì. Quindi meno arroganza, Virginia, perché tu vincerai comunque, ma un conto è vincere col 51% sì. E un conto è vincere col 60-65%, sì. Cerca di tapparti la bocca, dire cose che anche noi abbiamo sentito, che sì, tu non chiederai, sì. E non chiederai, no, tu devi invece essere aperta verso tutti, perché vai ad un ballottaggio, quindi tu devi accettare i voti di tutti con un sorriso. Va bene, con un e sorriso. Allora potrai superare il 60%. Senti, Divino, a Torino che succede? Chi vince a Torino? E mi tesse nella radio della Confindustria. Ma Torino, francamente, noi non abbiamo esaminato la situazione. Noi abbiamo concentrato la nostra analisi, siccome nessuno ci ha chiesto di preparare analisi per questa particolare puntata. Abbiamo concentrato l'analisi ancora ai tempi in cui si doveva decidere, sì, i primordi, quindi parliamo di circa 2 mesi fa. No, ma oggi Napoli, dove incontrando De Magistris, sì, e ad una sua torniamo ai vaticini, però domanda. Divino, torniamo noi abbiamo detto a De Magistris, sì, tu sarai il nuovo e dunque a Milano, a Napoli a Napoli vince De Magistris, no? A Napoli vince, gliel'avevamo già detto, quindi c'è facile proprio confermarlo, perché gliel'avevamo già ma oggi chi vince al ballottaggio? Avevamo promesso al candidato del centrodestra di Milano, lo aspirante di Sala, lui era in realtà sai neanche come si chiama, non proprio tanto sicuro, forse come si chiama, come si chiama, detto come si chiama, Divino, andrai al ballottaggio, come si chiama, non lo sa, ma non ho la più pallida idea, non mi interessa. Ma come non sai come si chiama? Dai. Non mi interessa come si chiama. Prova che non sa niente questo! Non ce la faccio più! Andiamo a fare in culo questo vostro pagliaccio e vi congediamo. Non lo sa! Non sa come si chiama! Non è più possibile sopportarlo! Aspetta! L'udienza è tolta! L'udienza è tolta! Non sa neanche come si chiama! Sono giorni! Accanto! Effettivamente non sapeva chi era Sala. E devo dire la verità. Spacco tutto adesso, spacco tutto! Sono giorni che si parla di quello lì! Non sapeva chi era Parisi, Basta! Spacco tutto! Non sapeva chi era Parisi, effettivamente spacco il divino. Tutto! Il divino non sapeva chi era Parisi. Va. Tutto spacco, Nino tutto. Da Palermo, Nino da Palermo, vai Nino. Finalmente! L'udienza è tolta. L'udienza è tolta. Il demente è tolto. Pronto. Nino, l'udienza è tolta. Ragazzi, un'ora che dai, ti Nino, dimmi, forza. Dimmi, Cruciano, ti chiamo di nuovo. 3 cose, Cruciano, ti faccio impazzire stasera. Dimmi. Io sono quello dei cani di Palermo, ti ricordi? Solito dei cani, come no, Nino, numero uno. Dai, dimmi. E allora, innanzitutto volevo promettere che onestamente, quando muore qualcuno, uno dovrebbe chiudere la bocca e non parlare più, perché quello non è che è un assassino come Tibbe o altre cose. Quindi, bravo Nino. Poi, questa è una minchiata proprio allucinante. Questa è la prima cosa. Bravo. Sai che Nino potrebbe diventare un editorialista della Zanzara? Nino, mi dico Nino. No, io vorrei solo a qualcuno come te, mi hai abbandonato. Ma che t'ho abbandonato? Dai, forza. La seconda cosa che volevi dire qual è? Sono tre. Seconda è su Sgarbi e la terza è sul sesso. Sì, ma andiamo col sesso prima. Partiamo col sesso. Mi immaginavo, Cruciani subito su stesso. Allora, Cruciani, io lavoravo come cameriere e quindi conoscevo molte ragazze, giusto? All'età di 19 anni, 20 anni, un bel ragazzo. Io. Allora, conosco una ragazza troppo bella, ci facciamo la classica schignatina, si dice che sarebbe? Baci con questa ragazza. Sì. Questa ragazza aveva il papà che lavorava come portiere in un palazzo dietro il cimitero di Sant'Orsolo a Palermo. Io sto a Quilla, ospedale Cervello. Sì, vai veloce, dai, che succede? Subito sto andando. E allora eravamo in contatto col telefono, quindi sai come si fa, che stai facendo, io mi sto toccando, tu che stai facendo, e questo era il nostro, diciamo, in quel momento. Poi un giorno c'era la macchina di mio padre, e vado da lei dopo due settimane. Allora ci incontriamo, lei esce dal portone, sale in macchina subito e mi fa, dice: senti Dino, sei un bel ragazzo, però devi capire che io purtroppo sono una ragazza seria e ho, veramente faccio solamente rapporti orali. Ma questo quanti anni fa? Quanti anni fa? Vent'anni fa, ma che ce ne frega a noi di vent'anni fa? Nino, pure tu stasera mi fai incazzare. Vent'anni fa ci stai raccontando il tuo rapporto con una di vent'anni fa. Nino, ti chiamo domani, ciao, a domani. Ciao Gianluca, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh? Radio 24. La passione si sente.